Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti di tutti i miei segreti, che confidavo a te. Carissimo Pinocchio, ricordi quando ero bambina, nel bianco mio lettino, ti sfogliai, ti parlai, ti sognai. Dove sei ti vorrei veder, del tuo mondo vorrei saper. Forse Babbo Geppetto è con te. Dov'è il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti parlò, e la fata turchina dov'è? Chi lo sa? Carissimo Pinocchio, sentimentale la piccola, non vi pare? Amico dei giorni più lieti, ricordi il paese dei balocchi? Con tutti i miei segreti. E mangia fuoco, che paura! Resti ancora nel mio cuore come allora. Carissimo Pinocchio.